America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti a America 24 da New York, Mario Platero. Ieri i repubblicani di Camera e Senato hanno raggiunto un compromesso di massima per un testo comune sulla riforma fiscale. Il processo di riconciliazione dunque sta andando bene. Questa nuova bozza è molto simile al progetto del Senato, ma ci sono ancora molti dettagli in sospeso. Detto questo, ormai è certo, si andrà al voto presto per poter avere il testo pronto per la firma di Trump alla Casa Bianca prima di Natale. Altra notizia di ieri, l'attesa decisione della Fed di aumentare i tassi di interesse portandoli all'1,5%. Ma oggi vorrei restare sulla vicenda del Russiagate, perché in questo stillicidio mediatico ogni giorno ce n'è una. Ieri, per esempio, è dovuto scendere in campo Rosenstein, numero 2 del Dipartimento della Giustizia, per difendere il procuratore Mueller da attacchi di repubblicani che chiedono le sue dimissioni. Ma in questi giorni non si parla solo di dettagli politici, si sta anche parlando molto di una storia d'amore nata all'ombra del Russiagate. Una storia d'amore fra una giovane attrice italiana, Simona Mangiante, che tra l'altro è anche laureata in diritto internazionale e ha anche lavorato a Bruxelles. Storia d'amore con chi? Con George Papadopoulos. Chi non se lo ricorda, è il primo personaggio chiave che lavorava alla campagna di Donald Trump, pizzicato dal procuratore speciale. E a quel punto Papadopoulos ha deciso di collaborare. Ma anche questa ragazza italiana, pensate, è finita nel Russiagate, non solo per il suo fidanzato, ma perché lei stessa è stata convocata dall'FBI come possibile informata di cose chiave ed ha accettato di raccontarci questa sua avventura, questa sua esperienza non proprio gradevole. Simona, buongiorno. Buongiorno. Simona, diamoci del tu, perché tu fai l'attrice, io avrei voluto fare l'attore, quindi insomma più o meno possiamo dire che siamo anche lontanamente colleghi, visto che conduco poi qui un programma radio. Ma tu sei stata a un certo punto contattata dall'FBI, ecco, non è una cosa da nulla, raccontaci. Io ero semplicemente in vacanza con George a Chicago quando ho trovato due agenti dell'FBI che sono venuti a trovarmi a casa sua consegnandomi un ordine giudiziario di presentarmi a Washington di fronte alla Mueller, che è appunto il procuratore speciale. Ovviamente possiamo immaginare lo sgomento, in quel momento non avevo assolutamente idea di cosa stesse accadendo. E mi hanno poi interrogata per 3 ore presso i loro quartieri generali, ed è tutto quanto di più simile che possa immaginare ad un film americano. Però tu a un certo punto sei anche diventata un po' un'eroina, perché hai difeso pubblicamente il tuo fidanzato George in un'intervista con George Stephanopoulos. George Stephanopoulos, una star della ABC. Sentiamo un piccolo estratto in cui tu prendi le parti del tuo fidanzato. I think he tried to dismiss George as a coffee boy, so I'm sure he will not be happy to read that. Ecco Simona, questo è uno dei punti chiave che ti ha trasformato così in un'eroina, la donna innamorata che difende il suo eroe. Dice, ma lui non era assolutamente un coffee boy. Ecco, cosa faceva George Papadopoulos per la campagna Trump? George ha avuto un ruolo importantissimo, ha stabilito contatti e relazioni con capi di Stato, soprattutto nel Medio Oriente, ha avuto un impatto molto più significativo di quello con cui Trump ha cercato di ridurlo ad una persona di basso livello, appunto il ragazzo che porta il caffè. Ecco, quindi tu dici che aveva molti contatti, ma tra questi contatti c'era questo professore, perché se non sbaglio entrambi avevate un professore comune, Joseph Mifsud, professore a Londra dell'Academy of Diplomacy, col quale avevate studiato indipendentemente, poi vi siete conosciuti su LinkedIn e così, ed è esploso l'amore. Però che succede? Che a un certo punto Mifsud chiama George e gli offre dei segreti russi, è vero? Sì, e ha tra l'altro anche contatti per organizzare un incontro tra Trump e Putin, che però non si è mai realizzato. Ecco, però vuol dire che questo Joseph Mifsud aveva dei contatti con la Russia, era dentro la nomenclatura russa. Joseph Mifsud è un lobbista con molti contatti in diversi governi e il suo ruolo, secondo me, è quello di intrecciare le relazioni, sicuramente anche con la Russia. E il motivo per cui sono stata interrogata dall'FBI è perché anch'io ho lavorato per questa persona. Ecco, e quindi l'idea qual era? Che ci fosse il tentativo di corrompere, diciamo così, di inquinare il processo elettorale americano, è vero? George non era consapevole. Adesso gli agenti stanno verificando effettivamente le intenzioni di Mifsud. Ecco, e in tutto questo raccontaci che cos'è stato arrivare nella sede dell'FBI di Chicago. È stata un'esperienza surreale, mi sono resa conto del livello di dettaglio di alcune informazioni a cui l'intelligenza americana ha accesso, e quindi anche questa esperienza è stata abbastanza surreale, no? Quindi ti volevano intimidire, volevano farti capire che loro sapevano molto di te? Sì, sapevano esattamente quando sono arrivata negli Stati Uniti, quando sarei ripartita. Ho ritrovato due agenti dell'FBI al boarding, all'imbarco del mio volo di ritorno da Chicago a Roma. Ecco, tu però hai avuto molto coraggio, perché nonostante questa atmosfera intimidatoria, non solo ti sei presentata da sola, perché se non sbaglio ti avevano proposto un avvocato che costava $800 l'ora, ma hai difeso e sei andata public in televisione e stai parlando anche con noi. Questo è per amore di George. Sì. Quando non c'è nulla da nascondere, bisogna assolutamente a testa alta affrontare la realtà. Quello che non mi è piaciuto è la distorsione della figura, della reputazione di George. Questo è stato il motivo per cui sono intervenuta, mi sono esposta e ho voluto raccontare un'altra parte della storia. Qual è il rischio che sta correndo George nel momento in cui dovesse andare davanti a un giudice? Quali sono i suoi obiettivi? Quali sono i vostri obiettivi? I nostri obiettivi sono quelli di guardare al futuro. I suoi avvocati hanno negoziato una pena massima di 6 mesi, che io non credo, sinceramente, avendo fiducia nella giustizia, secondo le mie conoscenze giuridiche non penso che sconterà, perché è stata la prima persona che coraggiosamente ha deciso di cooperare con il governo e dare tutte le informazioni importanti per l'FBI per ricostruire quello che è veramente accaduto. Ecco, e quando dici che volete costruire il vostro futuro insieme, qual è il prossimo passo di George e Simona? Il prossimo passo di George e Simona è quello di raccontare la nostra storia, la sua storia, che è romantica, intricata, una sorta di James Bond. Ecco, un libro. Come va a finire questo libro? Beh, intanto abbiamo deciso di sposarci. Quando? Sarà molto presto, il prossimo anno, e chiuso questo capitolo speriamo davvero di vivere con felicità e appieno la nostra vita. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye. And get going.